Tanto siete finiti voi, finiti! Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano, morti che camminano! La zanzara. Voterete, vi risparmierete un mucchio di parole inutili. Campagne elettorali, manifesti colossali, tante facce sorridenti così. Non fidatevi di internet. Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani, dove sei? Se la gente inizia a credere che non siamo persone di cui ci si può fidare. Eccomi qui, inizia la zanzara, 800240024. E caro Parenzo, insieme ad altri abbiamo fatto una vittima. Ci dispiace moltissimo perché in quest'Italia bigotta un imprenditore del porno, com'è questo Alessio De Giorgi, candidato nella lista, ex ormai candidato nella lista senatoriale di Monti, è stato costretto a lasciare. Lo so, abbiamo delle responsabilità enormi, guarda, su questo, molto grave quello che lui la racconta molto. In maniera ridicola, cioè la campagna è stato messo nel tritacarne, una campagna denigratoria, sessuofobica, omofobica da parte di alcuni giornali ed emittenti, intendendo anche la zanzara. In realtà non è così, perché questa mattina il signor De Giorgi ha ricevuto alcune telefonate da parte di esponenti della lista Monti, la signora Tinagli e il signor Andrea Romano, che l'hanno gentilmente pregato, insomma, di ritirarsi, di togliersi fuori dalle balle. E con quale motivazione? Beh, bastava ascoltare ieri la zanzara oppure leggere questa mattina alcuni quotidiani. Gestisce 3 siti hard e anche di incontri per escort. Per noi non è un problema, caro Parenzo, anzi, e però no, per lassù è un titolo di merito per noi questo. Lassù, titolo di merito, non esageriamo. Lassù, beh, però, lassù, al Vaticano, evidentemente la pensano in modo diverso. No? De Giorgi. Io dico che due persone omosessuali dentro una lista di centro servono anche a far dialogare con la cultura cattolica parti del paese che non hanno mai dialogato con la cultura cattolica o che l'hanno fatto con estrema difficoltà. Ho capito, ma se fino a ieri la situazione era questa, che è cambiato? Qualche telefonata? Qualche pressione? Non ci dobbiamo dimenticare che faceva il tifo per Matteo Renzi e parlava male di Casini il signor Alessio De Giorgi, direttore di gay.it, non bisogna mai dimenticarselo. Forse più questo, perché non posso credere aspetta, molto grave. Molto 15 grave. Minuti, perché la garanzia di avere una legge in 100 giorni che riconosca le nostre coppie, nessuno ce l'ha mai data, e perché Matteo Renzi ha già detto che dell'UDC ne vuole fare a meno. Dell'UDC ne vuole fare a meno e poi si è alleato con l'UDC. Insomma, un gran pastrocchio da parte dello stesso De Giorgi. Però, ripeto, una volta che c'è la candidatura non può intervenire il Vaticano, come noi sappiamo che è intervenuto per bloccare questa candidatura, eh? Dopo che è uscita la notizia che il signore gestisce 3 siti hard, uno di incontri per escort, eccetera, eccetera. Chi se ne frega? Viva l'imprenditoria anche del porno! E dillo forte, Parenzo, su! Ma no, anzi, io voglio dire di più. Questo qui, siccome è l'unico mercato che tira, voglio dire, hanno aumentato anche l'IVA questo governo, ma dovrebbero essere del signor Monti, ma dovrebbero essere contenti che c'è un mercato che funziona e che va. Io veramente non capisco, ma quale futuro può avere un paese senza questi settori strani? È un asset strategico quello. Grillo Santoro, ospite da Berlusconi, oggi in grande spolvero all'inizio del suo tour in Toscana. Santoro ospite da Berlusconi, una tristezza. In realtà è Santoro ospite da Berlusconi, questa è la battuta. Vedere Berlusconi. Cioè no, vedere Santoro che va ospite in una trasmissione di Berlusconi, io sono rimasto allibito, perché sei stupido, o sei stupido vuoi i soldi, allora se vuoi i soldi vuoi gli ascolti, e se vuoi gli ascolti vuoi i soldi, se no lo sa anche un bambino che se tu prendi uno e lo metti lì contro tutti, uno contro tutti ha già vinto dal punto di vista della comunicazione. Qui c'è un sacco di bugie. E a proposito di internet, il porno in rete, dice Grillo, toglie le prostitute dalle strade. Ormai è tutto così, turismo, guardate cosa c'è in rete, il porno, c'è il porno, ed è bellissimo, e non fate finta di non saperlo voi pensionati, perché siete tutte le notti, siete collegati. Ebbene, il porno in rete togli mignotte dalle strade, togli maniaci, togli violenza. Ognuno lo fa da casa sua, si dà un appuntamento con un'altra e sono affari suoi. La rete è democratica. Beh, insomma, in rete ci sono anche schifezze per quello che riguarda il porno, eh? Ci sono anche reati gravissimi che vengono commessi in rete. Comunque, vabbè, insomma, in linea di massima sono anche d'accordo. Poi Bersani paragonato a Gargamella. Non è la prima volta, eh? Vecchia. Abbiamo manifesti di 3 metri per 4, 3 metri per 4 con Gargamella del PD, che poverino, l'Italia guasta, l'Italia è lì messo un po' pensoso, un'espressione triste, anche i colori che sono stati scelti per Gargamella, un po' grigio, sembra una fettina riscaldata di un microonde, il colore, quindi... Infatti i manifesti che vediamo per strada... Molti mi hanno detto che sono un po' tristanzuoli, con quella fede messa in risalto. Però qui, se uno esprime un giudizio, poi diventa una tragedia per la par condicio. Ah sì, perché bisognerebbe farlo su tutti gli altri manifesti di Ma che ne so, ma chi se ne frega. Intanto Grillo, non so se voterò 5 Stelle perché mi tentano, sentite chi. Io non so se voterò Movimento 5, ve lo dico sinceramente. No, a me dà fiducia Casini quest'anno. E poi c'è Moggi che mi tenta. Tentato da Moggi. Poi una frase che ha fatto discutere: Monti ritardato morale. Ha fatto discutere ovviamente il ritardato. Ogni tanto Grillo non va per il sottile, però chi se ne frega alla fine, su. Abbiamo dei ritardati morali. Questo Monti è un ritardato morale, nel senso che fa le cose e poi il giorno dopo ne fa delle altre, ma moralmente non dice ho sbagliato, dice sono contro il redditometro, ma l'ha fatto lui, poteva toglierlo lui. Ha riempito di chiacchiere, ma con noi. Adesso senti poi Grillo più avanti, restate con noi perché questa sera ci sarà molto Grillo in questa trasmissione. Ma la notizia del giorno sai qual è? Qual è la notizia del giorno? Il avanti, nostro sì. Amico avvocato di Maradona di ieri, quello che sì. Ha presentato la lista, sì. La lista Noi, esatto. Italia, così. Sì, vabbè. L'ho attaccato in modo furibondo perché vabbè, allora... politici, ma gli hanno rifiutato il simbolo, cioè hanno rifiutato il simbolo No Equitalia e invece hanno accettato il simbolo la lista Bunga Bunga. Aspetta un attimo, Magdi Allam, te lo ricordi? Magdi Cristiano Allam, ecco. Che ha fatto il partito che si chiama Noi Io Italia, amo, li, io amo l'Italia. Io amo l'Italia. Cosa dici? Sì, ma infatti. Sì, comunque, sì. Senti che scontro con Pannella. Perché tu non ami l'Italia. Senti che scontro con Pannella a Sky TG24. Perché vogliamo essere rappresentativi degli italiani comuni. Abbiamo delle persone che possono essere, diciamo, indicate per una celebrità. Ma tu sei un talebano comune, non sei un italiano comune. Ecco. Sei un talebano comune. Comunque, se mi posso permettere, Moggi è un ferroviere di Civitavecchia. Io credo che la conduttrice dovrebbe intervenire per questa offesa in diretta. Ma tu sei un talebano comune! Sì, Pannella. No, ma dico, effettivamente anche i talebani potrebbero risentirsi. Pessima inversione internet, se la prende sempre solo con la gente onesta che lavora, siamo qui come chi... Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Ma con noi... Sì, pronto. Onorevole Delfino? Sono io. Buonasera, come sta? Sono Cruciani, la Zanzara, Radio 24. Come sta? Io sto bene. La disturbo? Sono in una riunione. Mi scusi. Volevamo sapere se era chiusa la vicenda della sua candidatura. Mi pare di sì, lei non si candida, no? No, non mi candido. Già, era chiusa da tempo. Sì, so, è vero, è chiusa da tempo. Però si io sono leale ai criteri stabiliti dalla coalizione. Dopo quante legislature non si candida? 7, mi sembra, no? Io ho fatto 7 campagne elettorali e ho fatto 21 anni di parlamentare. La prima campagna elettorale sono subentrata alla fine della legislatura perché è venuto a mancare l'allora... deputato vicepresidente della Camera, sì, onorevole Adolfo Sarti. Dunque stiamo parlando della Democrazia Cristiana, se non sbaglio. Democrazia Cristiana. Eh beh, certo. Allora, però, siamo 1800. No, che 1800, non fare lo stupido, su, non fare lo stupido. Scusi, però onorevole Delfino, mi scusi se la disturbo, però qui molti parlano di nepotismo, di familismo, perché si candida suo figlio. Ma guardi, il problema è trovare persone competenti, come ha detto, certo, il nostro leader Casini, che beh, meritino, certo, le candidature. Ho capito, tutto il resto è, diciamo così, è soltanto voglia di fare demagogia, sì, populismo. Dice, Il problema è, cioè, cosa ha suo figlio più degli altri? Ma non sarà non suo figlio, sono, scusa, elementi di diciamo così negativi, sono assolutamente elementi positivi, perché il primo, cosa è un elemento positivo, il scusi, primo requisito del, sì, politico è avere il senso del bene comune, sì, cose che è vedo questo, manca, certo, moltissimo nella politica attuale. Non c'è dubbio, però scusi, non è un caso che si candida suo figlio, e lei è 7 legislature, UDC, mio suo figlio ha un'attività professionale, mio figlio è segretario provinciale, mio, sì, figlio ha fatto una forte impegno e una forte militanza negli organi di partito, non vedo cosa ci sia di scandaloso. Beh, è suo figlio, uno dovrebbe avere un po', cioè, da Delfino a Delfino. Uno deve rinunciare ad essere figlio di, mi scusi. No, quello no, però magari in questo momento, cioè, capisce, non è obbligatorio che un figlio faccia per forza politica come il padre, poi è anche una questione, ma di... Ma no, non è obbligatorio, ma nemmeno vietato, non capisco francamente. Ma c'è anche non una questione di... Non è obbligatorio, ma non è nemmeno vietato. Ho capito. Io adesso devo lasciarla, perché vedo che non è che abbia grandi argomenti lei. No, l'argomento è che ci sono... Per intrattenermi ulteriormente, no, a te. No, saluto e, vabbè, le auguro buon lavoro. Ci sono tante persone competenti, però non c'è solo suo figlio. Le auguro buon lavoro. Tante persone, tanti amministratori. Vabbè, grazie. Magari. Se ci voterete, vi risparmierete un mucchio. Vabbè. A me fa impazzire questa cosa, il trapasso da padre a figlio dell'attività politica. Ma uno, certo, dice milita, beh, ti credo, milita, c'è il padre che l'ha messo segretario provinciale dell'UDC, dopodiché c'è un trapasso di seggio evidente con il Porcellum, senza le preferenze, senza nulla, e dunque il nome di Delfino, per carità, non voglio criminalizzare nessuno, passa dal padre al figlio. Uno si deve incazzare, sì o no, secondo te? Vabbè. Ma l'ennesima potenza... Eh beh. Altro telefono. Pronto? Sì, pronto. Ma è il mio telefono che suona, è un altro telefono. Mi stai facendo sperare il telefono? Dai, non fare il cretino, su. Come lotta sul cruciale. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Ah, a proposito, adesso che ho sentito questa voce, mi ricordano che è stato trovato, sì, in mezzo al tesoro di Ciancimino, sì, il busto di Almirante. Basta! Vabbè, riproviamo più avanti. Riproviamo Io più avanti. Continuo a fare segnalazioni. In politica comunque ci vogliono le competenze, ci vogliono le professionalità, il bene comune, diceva il signor Teresio Delfino. E infatti candida il figlio. Dina da Barletta, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Non saprete mai di chi era il telefono che squillava. Dina da Barletta. Dina! Mauro da Como, su. Pronto? Sì, dica, veloce, rapido. Sì, io telefono, mi hai detto quella di ieri sera. Mauro, vada diretto al punto, vada diretto al punto, non mi faccia venire il nervoso. Berlusconi che dichiara di essere ipercattolico, ma sì, io sono allibito da una dichiarazione simile. Sì. Non esiste l'ipercattolicità, esiste l'essere cristiano, l'essere cattolico, che non è derivato da una dichiarazione del 3x2, dell'iper o dell'esse lunga. Qui non siamo al supermercato. Uno è cattolico se si comporta bene, in maniera corretta, in maniera coerente. cioè non c'è l'ipercattolicità. Guardi, non so se sia se, sì, ma ho capito quello che vuole dire lei. Il problema è che per me personalmente non ha senso dichiararsi ipercattolico. Io sono ipercattolico, ho sette cappelle a casa, 50 suore che mi aspettano ogni mattina, 35 sacerdoti da cui vado a confessarmi, chi se ne frega, chi se ne frega. Ma anche se uno dicesse sono iperbuddista o sono iper cioè qua, però non giustifica il fatto che ha avuto due mogli, 70 amanti da quello che dice lui, eccetera eccetera. Il fatto di avere poi sette zie suore, che sarebbe poi da verificare perché dubito anche questa dichiarazione, cioè non lo assolve dal fatto di aver fatto certi peccati, cioè ma è quello che c'entra i peccati suore, che cosa c'entrano, vero, su non gli permette certi comportamenti. Grazie. Well, now, mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here. La discussione è: in Parlamento può andare qualcuno che opera su siti porno? Cioè che è un imprenditore del porno? Ci può andare, sì o no? Questo è il punto che riguarda De Giorgi. Ci può andare o no? Secondo alcuni, no. Secondo altri, sì. Secondo me, sì. Ma sulla base di che cosa non può andare? Alcuni dicono, in America, per esempio, sarebbe impensabile una cosa di questo tipo. Ma perché? Francesco da Salerno, buonasera. Cioè, si ritiene che la pornografia sia reato, ma se non lo è? Pronto? Non stiamo parlando solamente di reati, cosa c'entrano i reati? Francesco da Salerno, dai, Francesco. Sì, salve, buonasera, signor Cruciani. Dica. Ma per quanto riguardava il signor De Giorgi, ma non è il reato di avere dei siti porno, più che altro è promuovere la prostituzione, perché sappiamo benissimo. No, attenzione, che... attenzione, lui dice di non promuovere nessuna prostituzione. Sì, ma avere dei siti dove vengono pubblicizzate delle escort, sappiamo benissimo che la escort non è una macchina, ma è benissimo una ragazza che offre il suo corpo per delle prestazioni a pagamento. A parte quello, lasciamo perdere. Poi considerare il signor Delfino che ha lasciato la sua impronta genetica al figlio, considerando che dopo i suoi 21 anni di politico, politicante, fallimentare, insieme agli altri, beh, speriamo che l'Italia... Ovviamente lui non pensa che siano 20 anni di politica fallimentare, la penserà diversamente. Ma il problema è proprio quello, che gli italiani invece pensano diversamente e non hanno più la possibilità di scegliere i propri politici. Come vediamo assurdo riproporsi Berlusconi dopo che aveva perso tutti i consensi, adesso vediamo la sua ascesa al potere. Un attimo. Io mi zitto, ma stai zitto, sì, è meglio che stai zitto. Squilla il telefono della zanzara alle 18.53. Però, voglio dire, alle 18.53 siedono in Parlamento persone indagate e rinviate a giudizio per reati gravissimi e ora discutiamo di un imprenditore di un settore, per carità, discutibile, ma nella pieno rispetto della legalità. Sì, io sono d'accordo con te, però non bisogna nemmeno essere ipocriti, perché il signor De Giorgi dice, d'accordo, però il signor De Giorgi dice di essere stato di essere, lo capisci meglio, what we are talking about. Sì, d'accordo, però bisogna anche, ho capito, però bisogna anche dire che no all'ipocrisia, sono stato vittima di un tritacarne, è ridicolo, non c'è stato nessun tritacarne, ma legittime inchieste di giornali e radio come la nostra e trasmissioni come la nostra sulla sua attività imprenditoriale. No, ti dico di più, l'errore semmai lo ha fatto chi lo ha candidato senza sapere nulla di lui. Lui poverino è trasparente, lui fa la sua cosa, fa le sue inclinazioni sessuali, ha le sue aziende. Allora, se tu candidi una persona ti devi informare di chi è questa persona, quali sono le sue attività. Ma di che cosa? Ma scusami, ma non c'era il signor Bondi che doveva verificare? Bravo, sì, bravo. Signor Bondi. Perché il signor Bondi? Perché libero? Aspettate, perché libero e la zanzara sono arrivati prima del signor Bondi? Questo bisogna. Perché il quotidiano libero e la trasmissione la zanzara sono arrivati prima del signor Bondi? Secondo, quanto è pagato il signor Bondi per fare quello che voglio adesso? A questo punto lo stesso stipendio del signor Bondi, io e Cruciani ovviamente, ma anche i signori gli amici di Libero, perché siamo arrivati laddove il signor Bondi, l'uomo, il grande professore, il grande ristoratore di Parmalat, ad esempio, che questo l'ha detto, no? Il grande uomo che ha gestito la vicenda Parmalat, chiamato da professor Monti a gestire questo, non è stato in grado di scoprire quali basta! Sono le attività. Basta! Danzano come zanzare. Dima da Barletta, buonasera. Adesso, prima o poi ti interrompo. Adesso ti interrompo così, eh. Dima da Barletta, quando ti allunghi un po' troppo. Dima, sì, bravo. Vai veloce. Sì. Volevo rispondere. Non si sente niente, non si sente niente. Guerrino da Bergamo. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire, avevo capito all'inizio della trasmissione che si parlava del Movimento 5 Stelle. Lei può parlare di quello che vuole, Guerrino, di quello che vuole. Perfetto, io sono appunto D'accordo su tutto quello che dice Grillo, le sue battaglie sul fatto che allora? Tutti quelli che devono andare a casa, tutti i politici, tutto quello sì. che hanno fatto in questi anni, devono andare a casa perché... Vabbè, però io allora? Non lo voterò, sono d'accordo ma non posso votarlo. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Mi scusi, Roya, ma lei in Guatemala, ma che minchia ha visto il duty free? C'è stato un quarto d'ora. Ma l'incarico all'ONU cos'era? Mangiare un toast? Almeno lo ha finito quel toast? Provaci e smetti di volare. Proprio qui da me dovevi capitare. Possa via. Il litigio Fini Tremonti, sempre da Ballarò ieri sera. In realtà quel buco c'era ed è rimasto. Scusa, di quanto fammi era finire quel buco? Però, di fammi quanto finire. Era quel buco? L'ICI, per quel che riguarda il 2011, stimava 9.648 milioni di euro. Stiamo parlando del 2008, euro. Il buco creato Tremonti, nel 2008. O mi fai parlare o se mi interrompi, sì, dimostri soltanto che sei onorevole Tremonti, aspetta. Esattamente quello che è accaduto in tutti questi anni, ogni qualvolta ti contestavo sì. i tagli lineari, ti contestavo sì, in Consiglio dei infatti Ministri. Infatti sei andato a sbattere, vai. Credo che sia andata a sbattere l'Italia, Tremonti, governata da te per 8 anni al ministro dell'economia, non io. E si sono beccati così per tutta la puntata. Ovviamente non sto parlando qui, non parliamo qui delle responsabilità di Tremonti. Però insomma tutte queste critiche pubbliche di Fini, lui dice in Consiglio dei Ministri sulla politica economica di Tremonti, non si ricordano, eh? Non si ricordano, soprattutto nella prima fase, ovviamente, no? Nella prima fase del governo. Ma dove diavolo sei che sento delle voci di sottofondo, Parenzo? Scusa? Sono voci di sottofondo perché collegamento da un lazzaretto, ma adesso non posso perché. No, ma di cosa? Sono malato, eh? Non ho capito, scusa. No, sono in collegamento in un luogo riservato nel quale non può essere rivelato, come il covo di Totò Riina. Sì, sì, vabbè, sentiamo il TG3 che è meglio, va. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il TG3 alla Fiat di Melfi dopo l'annuncio della cassa integrazione, timori degli operai, no a discriminazioni come a Pomigliano, crolla il mercato dell'auto, quote latte perquisite le sedi della Lega di Milano e Torino, ipotesi di reato, bancarotta e corruzione, Maroni, l'inchiesta non riguarda il partito. L'ex sindaco di Parma Vignali agli arresti domiciliari per corruzione, avrebbe accumulato ingenti ricchezze pubbliche per uso privato. Berlusconi attacca il capogruppo del PPE Daul dopo il sostegno a Monti, vuol fare solo carriera, critiche anche a Juncker e Schulz. Monti all'estero, per anni l'Italia è stata senza premier, frecciate anche alla Lega, proponevano il Made in Italy con i ministeri a Monza. Le misure di Obama per limitare la vendita delle armi, ogni giorno che aspettiamo ad agire le vittime aumentano, dice il Presidente. Col ciclone Morgana neve al centro-nord, nessuna situazione d'emergenza, ma ritardi nei trasporti, auto in difficoltà sull'autostrada Roma-L'Aquila. Domani neve anche al sud. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo. Si insiste qui, si insiste. Ma non possiamo fare noi una lista alla Zanzara e candidare il direttore di gay.it? Intanto sentiamo Grillo. Grillo, senza di noi la gente prenderebbe i bastoni. Io questa qua è una cosa che non ho mai capita. Che cosa vuol dire che senza la lista Grillo, che è accreditata di un 13-14%, quello che è... Questo l'ha sempre detto. Sì, la gente prenderebbe i bastoni. Come, ma chi l'ha disse, detto? Altrimenti vincerebbe un movimento tipo Alba Dorata, sì, cioè, quindi violento, ma non è reazionario. Vero, questo qua non è vero. Cioè, lui dice che canalizza, questo dice nella sua lucida follia, dice che lui è in grado di canalizzare il dissenso, che potrebbe anche diventare dissenso armato. Fammi dissenso sentire, quello. Fammi sentire. Noi stiamo riempiendo un vuoto che se non lo riempiamo noi, lo riempiono quelli che non parlano più, che non vengono più qua, che prendono dei bastoni. Noi stiamo salvando la democrazia in questo paese, ci dovrebbero ringraziare. Ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho beccato. Poi propone al ministro delle finanze una madre di 3 figli e non un bocconiano. Che vuol dire una madre di 3 figli? Bah, mamma mia, che stupidaggini. In Parlamento io, ministro delle finanze, ci voglio una signora che ha tirato su 3 figli e ha fatto mangiare e lavorare e ha mangiato e lavorato e non ha fatto fallire la sua famiglia. Io voglio sapere, queste persone sanno cos'è l'economia, noi bocconiani. Una botta al polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro, una botta al polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. E adesso, caro Parenzo, dai il solito consiglio a chi è in macchina, dai il solito consiglio a chi si trova magari con i figli, non solo nella vettura, magari a casa, in cucina, preparando la cena. Dai un consiglio pacatissimo, come al solito. Care mamme e cari papà che siete a casa e state ascoltando la trasmissione La Zanzara. In questa fase di trasmissione ci saranno delle cose inaudite che voi ascolterete, messe in onda da signor Cruciani. Prendete il vostro adorabile bambino, aprite la cella frigorifera del vostro freezer e ficcate il vostro bambino dentro il freezer. Accuratevi di chiudere molto bene il freezer, mettetegli anche magari un cuccio in bocca, altrimenti all'inizio potrebbe fare quei fastidiosi vagiti. E poi radio a tutto volume. Ma scusa, spiegami perché proprio nella cella frigorifera. Scusa, se uno è in macchina. No, vabbè, lì, se uno è in macchina deve come al solito accostare un attimo. Sì, accostare un attimo. Sì, certo. E come? Sì, accostare, legare il bambino al guardrail. Sì, non si sente quasi più, dimmi. Sì. Come? Sì, avvicina meglio questa bocca al coso, dimmi. Legare il bambino al guardrail, sì. Mettere sopra il collo del bambino quel triangolo che si mette in genere quando le macchine si rompono, sì, e quindi certo. Via, sgommare via tutto e non tornare più, ovviamente. Col B. Donde Capitani, qualcuno dice basta, il prete in provincia di Bergamo, anticavaliere, ha esagerato. Vi dico che ha esagerato. Quello che con me non vuol parlare, giusto? Ah, è quello che non vuole parlare con te. Senti cosa dice. Medaglia. Il lurido vecchione non si rende conto che il suo volto è ormai una maschera di schifezza e che ogni parola che dice è solo bava e che ogni suo gesto è come un rantolo. Lurido vecchione con la maschera di schifezza. Questo è un prete, cari ascoltatori. Questo è un prete. La chiesa. Ma fermate quest'uomo. Anche fermare il declino. Fermate quest'uomo. La chiesa si dissocia dal porco maledetto. Sentite. Ed ora, dopo anni e anni di connivenza col potere più schifoso, con il porco maledetto, con il corruttore più bastardo, la gerarchia vaticana si sta spostando da dove spera che i suoi beni non negoziabili siano di nuovo salvaguardati, naturalmente a vantaggio della Santa Romana Chiesa. Ancora su Berlusconi. Sa che l'orgasmo sta per finire, ma non si rassegna. Prima si sentiva giovane attorniandosi di puttanelle bellocce e avide di denaro. Ora si accontenta di una sola, di carne tenera, disponibile al gioco, lasciando le amiche morire di gelosia. Beh, Parenzo, esprimiti tu. Ma questa è una persona da rinchiudere immediatamente nelle celle del Vaticano, quelle dove ci stava il povero corvo. Bisogna mettere lui lì dentro, processato dalle guardie svizzere, ma immediatamente, illico, acqua immediato. Teresa dalla provincia di Modena, buonasera. Teresa? Sì, pronto. Dica. Allora, io veramente, io vi ascolto sempre, tutte le sere, perché io vengo via, sono un rappresentante che faccio un lavoro di vendita. Vabbè, ho capito, sì. Radio. Io non posso ascoltare quel signore che urla, che dice basta, mi viene male allo stomaco. Cosa devo fare io, Teresa? E per dirglielo che non parlo più. Perché? Perché? Perché mi sento male. Ho capito, lei si sente male, io mi sento benissimo quando sento quel basta allo stato ladro, basta all'eccessiva tassazione, eccetera. Godo come un pazzo. Deve andare avanti ancora quella cosa. Eh sì, guardi, glielo regalo subito, così si sente male. No. Basta! Ma cosa le succede, signora, quando sente queste cose? Chi è quello che lo fa? È lei. No, io non c'entro niente, Giannino. Ma cosa le succede quando sente questi basta? Mi sento male, mi sento, perché io ho dei problemi di... Si sente male? Vabbè, mi dispiace, però è così, la vita va così, ci sono anche delle cose fastidiose. Paolo da Firenze, buonasera. Senti, io non mi assumo la responsabilità di questo, ma mi segnalano su Twitter l'amico Michelangelo Sinisi, quindi lo puoi anche verificare, che è stato trovato il busto di Almirante nascosto nella gobba di Andreotti. Dai, non faccio su. Il cretino, non faccio il cretino. Paolo da Firenze. Buonasera. Quella buonasera, dottor Cesare. Vada. Volevo chiedere a voi, al suo ospite, a lei, al suo ospite, come mai, secondo voi, il movimento di Oscar Giannino ha dei consensi così bassi? Io sono sconcertato di questa cosa. E che vuole che le dica io, Paolo? Cioè, non è che decido io come gli italiani voteranno. La vostra opinione, se lei... Ma non lo so, non lo so, è chiaro che quando si entra nel vivo della campagna elettorale i grandi partiti la fanno poi da padrone anche dal punto di vista dell'interesse mediatico e di tutto, ed è molto complicato. Dopodiché, insomma, è un discorso lungo su cosa si poteva fare prima e cosa si può ancora fare per quello che riguarda il movimento di Giannino, no? Fabrizio dalla provincia di Ancona, grazie. Fabrizio, ho visto Ballarò ieri sera, sì. Sono riuscito una volta di più ad indignarmi per il comportamento di un politico. Quel parassita, e non lo definisco diversamente di Fini, non più tanto parassita di tanti altri suoi colleghi, sì. Si è permesso di dire, ha perso una buona occasione per tacere alla signora Nonino, un'imprenditrice che guida un'azienda sana, la prova contraria, che resiste alla lusinghe, gli spostamenti in Carinthia o in Slovenia, dove ci sono delle condizioni eccezionali. Si è permesso lui, che va avanti con i soldi nostri e suoi, di questa signora, che dà lavoro a delle persone, che rifiuta... Se non me lo ricordo questo passaggio, cosa ha detto alla... Cosa ha detto signora Nonino? La signora Nonino diceva, sì, noi facciamo i sacrifici, benissimo, però qualche esempio anche voi dovreste darlo. Il signor Fini ha esordito così, lei ha perso una buona occasione per tacere, e poi ha addotto la motivazione, dice, perché io in 3 anni ho ridotto la dotazione alla Camera di 150 milioni, eccetera, eccetera. Non ha detto in che percentuale, non ha detto cosa ci ha fatto fino adesso con questi 150 milioni, non ha detto che fino hanno fatto le promesse elettorali, le province... Vabbè, ma non è che l'ha... ha detto proprio così, lei ha perso la buona occasione per tacere? Ha perso la buona occasione per tacere, parole testuali. Grazie Fabrizio. Francesco da Milano. Buonasera, sono Francesco. Sì. Volevo dire che Beppe Grillo dovrebbe tornare a fare il comico e non il politico, perché non è capace ed è un populista. E lasciare fare la politica a chi la sa fare, cioè a Berlusconi, perché il signor Berlusconi... Ma che vuol dire dovrebbe lasciarla a Berlusconi? Scusi, dovrebbe tornare a fare il comico e invece dovrebbe lasciarla a Berlusconi? Ma che ragionamento è? Sì, no, è un ragionamento... Ma quale ragionamento? Non è un ragionamento, è una follia, è una follia. Ma è una follia, quello è un grande Berlusconi. Il piano casa che aveva in mente lui avrebbe dato lavoro a migliaia di lavoratori edili come me. Sì, edili come lei, sì. Sono a casa. Sì. Dove si trova lei, Francesco? Sono a Milano. Sì, in che zona si trova? Sono a Rozzano, Milano Rozzano. Rozzano. Stia fermo lì a Rozzano da qualche parte, adesso arrivano due signori in bianco. No, ma lei sta scherzando. A il volti piano casa, allora le spiego il una piano cosa, casa, ma quale piano casa? Il su piano il casa piano che casa aveva, che aveva in mente Silvio, sì, Silvio. Era un toccasana per l'edilizia di questo toccasana. Paese, dove uno che ha una casa per spostare un muro ha bisogno della commissione edilizia, ma dove mai si è vista a casa sua? Quando c'è l'architetto, ma perché non l'ha fatto allora? Perché? Tutti i comuni di sinistra si sono opposti. Sì, i comuni di sinistra si sono opposti. Perché vogliono mantenere il potere. Ma ti pare normale che il dottor Ingroia scelga come simbolo di alcuni manifesti il mio amato Dylan Dog? Mi sento... mi sento, caro Parenzo, quasi, no, quasi offeso, rapinato di uno dei miei idoli assoluti. Ma non puoi fare polemica proprio su tutto. Beh, ho capito, tutto. Ma anche l'editore Sergio Bonelli si è arrabbiato come una bestia. La Sergio Bonelli editore ha diffidato di Rivoluzione Civile. No, ma lì il problema è diverso. Come le cose vanno spiegate bene, e ogni tanto bisogna anche studiare oltre che far polemiche. Ah, tu lo dici lì a me, cosa hai fatto tutto il giorno oggi? Io ho lavorato e ti dico questo. Bonelli, stai buono. Bonelli ha posto una questione, cioè siccome tu usi un marchio, cioè una roba che comunque è coperta da diritti, non è che tu puoi fare la zanzara e mettere Gruccio, quello di Dylan Dog o Martin Mister, che sono tutti disegni registrati. No, ma non è un problema, è un problema semplicemente di diritti, come la sia, cioè è una questione di diritti, non una questione, adesso fare poi una polemica su Dylan Dog, perché Dylan Dog non è, ho capito, ma non puoi usare l'immagine, non puoi usare quell'immagine, ma non lì, puoi, no, da un punto di vista tecnico di diritto, non da un punto di vista etico, non so come dire. Ma no, ma fai che c'entra etico? È come se io utilizzo il simbolo di un fumetto famoso per farmi campagna elettorale, e devi chiedere l'autorizzazione per farlo. Certo, ma quello dico, siccome non l'hanno chiesto. Dov'è il problema? Io fossi in Forza Italia, in PDL, userei ad esempio la Gaston, come si chiama lì? Zio Paperone, userei ad esempio. Zio Paperone userei, se fossi infatti non ti prendono come consulente. Zio Paperone. Non ti prendono come consulente, inutile che insisti. Zio Paperone. Oh, ma sentiamo un po' di Berlusconi di oggi, va, c'è un matto in giro che si crede Monti, sentiamo. Dopo aver messo l'IMU ha detto che se qualcuno l'avesse tolta si sarebbe dovuto rimetterla raddoppiata dopo un anno. Non è vero. Adesso ha detto che va ridotta, poi aveva varato anche, ha varato il 4 di gennaio il redditometro, poi ha detto che non lo vuole più, prima ha detto che le tasse non si possono ridurre, poi si è augurato che prima o poi lo si possa fare. Ecco, qua così o Monti pensa che gli italiani siano matti o c'è in giro un matto che crede di essere Monti. Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Poi c'è Crosetto che è passato con Fratelli d'Italia anche un po' nel dimenticatoio, bisogna dire la verità, non so se sia stata una scelta felicissima, io lo abbraccio fortissimo, però ho dei dubbi, comunque vabbè, lasciamo perdere, il quale dice di non dormire da 62 ore, però ho capito, però perché la cosa dovrebbe interessarci? Sentiamo. Ma lì il problema non è Crosetto. Aspetta, fammi sentire. Allora, Crosetto, forza, ci dica, visto che mi ha detto quante ore è che non dorme, 62 ore che non dorme. Sì. Allora, è stato così gentile. Fare 20 giorni un partito è una cosa, è una pazzia, ma è molto difficile. Mandatemi un grillo, dai, che in libreria nasconde il libro di Vespa, dai. Ora, non so se nel programma del vostro blog adesso del Lazio avete messo come comportarsi in una libreria, c'è la cultura, per esempio, se vedi un libro di Bruno Vespa cosa fai in una libreria? Allora si fa così, dov'è? Prima lo devi identificare, vieni, lì c'è un Bruno Vespa sotto, allora la prima cosa da fare è prendere un Emanuele Severino che mi sembra interessante e coprire subito i libri di Bruno Vespa, capisci? Si coprono in modo che non diano proprio sospetto, così, ecco. Ci mettiamo davanti Sterlis Rizzo, va bene così, e questo che avanza lo mettiamo qua e ci mettiamo sopra un Roma, così, ecco. Ceausescu! Ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la Pravda. Allora, Davide da Brescia, buonasera. Davide. Ciao Bruciani, volevo sentire. Non sento nulla, Marco da Berga. Del caro nostro amico Salvini sulla polemica fatta. Non sento, sento male, Marco da Bergamo. Marco, mi senti? Sono Cruciani, mi senti? Sì, la sento, dica. Allora, chiedi a Parenzo, perché io con lui non parlo. Chieda a Parenzo, sì. Chieda a Parenzo, scusi, sì. Chieda a Parenzo, ma dove ha lasciato il cervello? Ma io, se lui fosse mio figlio, io sarei deluso. Come si farà a parlare in questo modo dei bambini? E tu quanto tempo gli dai a disposizione da quell'uomo lì? Tra Grillo e Parenzo, non lo so, fondate un partito. Non ho capito, cosa ha detto dei bambini? Fondate un partito. Ma cosa ha detto dei bambini? Non ho capito. No, prima dell'autostrada, il cervello, il freezer. Ma lei non ha capito nulla allora? Cioè... No, ma dai! Vabbè, non ha capito niente. Giampaolo da Modena. Guarda su internet, digiti la parola ironia. Poi se non Giampaolo capisce, da Modena, dica. Mi fate parlare? Sì, e se lei parla, siamo qui ad ascoltare. Se parla sopra apparenza, come faccio? Non si preoccupi, lei parli. Allora, dico la mia sul Santoro Berlusconi. A meno che non voglia dire quella di un altro, non la sua. Vabbè. Sì. Allora, io credo che non ci sia niente di politico nel dato dei 9 milioni. Sì. Non c'era nessun interesse, ma l'interesse era solo quello che c'era al Circo Massimo. Ho capito, ma è passata una settimana, eh? E chi se ne frega? Sì, sì, allora, no, per carità. Vabbè. Cioè, chi se ne frega? Io voglio solo dire questo, che secondo me un'analisi che non ho visto, non ho sentito, non ho letto, magari no, certo, l'ha fatta. Sì, qual è? È che era la gente voleva vedere rotolare nella polvere, aveva piacere così di vederlo cadere. E allora? Sotto. E allora ha guardato in tanti, 9 milioni, specialmente nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, c'è stato un grosso ascolto. Mm. E io credo che lei ci ha messo una settimana per tirare fuori questa cosa? Per carità, ognuno ha i suoi tempi, per carità. Ognuno ha i suoi tempi. Bene, bravo, grazie. Bravo. Marcello dalla provincia di Udine. Buonasera Cruciani, un dica, onore per me. Vada. Allora, niente, io ho voluto intervenire per dire, insomma, che gli italiani sono un popolo di sognatori, no? Mm. Abbiamo visto in questi ultimi tempi... Popolo di sognatori. Abbiamo visto lo Schettino che ha confessato di avere il sogno di ritornare a pilotare le navi da crociera, no? Mm. E ognuno ha i sogni, certo, fa i sogni che vuole, no? Poi c'è Berlusconi che vuole ritornare ad essere presidente del Consiglio dei Ministri, no? Lui dice di no, che vuole fare il ministro dell'economia. Vabbè, però è sempre un sogno, no? Beh, sì. Speriamo almeno che sì. Anche lei sogna, no? Certo. Però noi qui in Friuli i sogni ce li facciamo confezionare dallo Stato. Siamo bravi qua noi, non è che ci permettiamo di sognare grandi cose. Ma dove, scusi? Qui, noi, in Friuli. In Friuli? Sì. Lei non sogna? No, io aspetto che mi preparino un sogno, no? Berlusconi, Monti, Bersani. Speriamo che me lo preparino abbastanza bello, che mi faccia dormire bene la notte. Mm. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Calogero, ci chiama da Agrigento. Siamo qui, adesso riprendiamo. Calogero Mannino, bene. Riprendiamo bene, vigore, bene. Calogero. Buonasera. Mannino, buonasera, bene. Calogero, dica. Buonasera, niente, volevo intervenire sul fatto che un imprenditore del sesso sia candidato nelle liste di Monti. Sì. Io non sono era candidato, non è più candidato. Ah, non è più candidato? Eh no, si è ritirato. Dopo si la nostra puntata di ieri, dopo le nostre rivelazioni, dopo le rivelazioni fatte ancora prima da Libero, si è ritirato. Lui dice perché c'è stato... un buon servizio alla Chiesa. Ma punto. A me non me ne frega niente di fare un buon servizio alla Chiesa. È stato messo nel tritacarne, dice lui. Secondo me, anzi, io so che non è andata così. Cioè, c'è stata una pressione molto forte sui capi bastone, chiamiamoli così anche se è una brutta espressione, della lista Monti da parte del Vaticano. Comunque, al di là di ecco, questa è l'ipocrisia di fondo, ecco. E, al di là del fatto che non mi scandalizza per niente che un imprenditore del sesso sia candidato, sì, del fatto che Bondi, che doveva controllare le liste di Monti, sì, no, diciamo non se ne sia accorto, o magari se ne è accorto ed era consapevole di candidare un imprenditore del sesso. Mi scandalizza che il Vaticano faccia delle pressioni, questo ritengo che sia un'ipocrisia, che faccia delle pressioni affinché tutto questo non succeda. Questo non credo che sia un paese civile, insomma, dove il Vaticano abbia tutto questo potere. Non cosa vuole fare? Che siamo in una teocrazia, ma siamo in una democrazia. Se è andata così, è andata così. D'altra parte il Vaticano può fare tutte le pressioni che vuole, sta alla politica o a chi entra in politica di respingere queste cose. Qualcuno evidentemente si è scandalizzato per questa attività imprenditoriale di Alessio De Giorgi, che era il numero 4 della lista al Senato di Mario Monti. Lui fino a ieri sera non si voleva ritirare, non aveva nessuna intenzione di ritirarsi. Evidentemente questa mattina è successo qualcosa. È evidente che è successo qualcosa. Non lo sapevano prima. È evidente. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. Why don't you go? Ci segnalano ovviamente che non c'è solo il figlio di Taresio Delfino, c'è anche il figlio di Ciriaco De Mita, Giuseppe De Mita, che è capolista in Campania. Capolista in Campania. Ma non saranno parenti, figurati. Come no, il figlio? No, dai, è il figlio, per è il figlio, è il figlio. Non è possibile, dai. Ed è lo stesso è De Mita. Lombardo, ed è lo non è possibile che sia suo figlio. No, è figlio, è il figlio. Ed è lo stesso De Mita. Aspetta, è lo stesso De Mita che dice che Berlusconi dovrebbe uscire dal Partito Popolare Europeo oppure sarà espulso. Ed è lo stesso De Mita il quale ha il record di assenze tra i parlamentari italiani e il Parlamento Europeo. De Mita senior. Però si candida De Mita junior, che è già assessore di Caldoro. È con noi uno di quelli che è stato definito dai giornali, e non solo dai giornali, anche da Franca Rame, come impresentabile. Come impresentabile. Stiamo parlando del Partito Democratico con il senatore di lunga data Antonio Papania. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. La sento poco, bisogna alzare un po' la voce, bisogna avvicinarsi un po' di più. Impresentabile e insentibile anche. No, impresentabile lo dicono alcuni giornali, non solo, e alcuni commentatori, perché ha una condanna che ha patteggiato a 2 mesi e 20 giorni per abuso d'ufficio. Si aspetta la decisione da parte della commissione di garanzia presieduta dal signor Berlinguer. È preoccupato lei, signor Papania, per questa decisione? No, non sono niente affatto preoccupato. Non ho patteggiato una condanna, ma un'applicazione sì, patteggiato convertita in multa. Convertita in multa di 3.089 euro che ho pagato. Sì, però ha patteggiato 2 mesi e 20 giorni per abuso d'ufficio. Convertita in multa di 3.089 euro che ho pagato. Beh, certo. E nel 2007 il reato è stato dichiarato estinto dal Tribunale di Palermo. Che significa quando uno quando il reato è stato dichiarato estinto? Significa che uno è completamente riabilitato, che il suo casellario giudiziario e il suo certificato dei carichi pendenti è nullo. E dunque, secondo lo statuto del Partito Democratico, lei si può tranquillamente candidare? Secondo lo statuto del Partito Democratico, sì. D'altronde, se no non mi sarei potuto candidare alle primarie. Intervenuta e riabilitata. Allora perché si discute del suo caso? O non si discuterà del suo caso nella Commissione dei Garanti? No, si discuterà, perché è giusto che se ne discuta, avendo avuto questo patteggiamento. Come si discute degli altri casi, si discute anche del mio. E lei è preoccupato per questo, senatore Papania? Non sono preoccupato in nessun caso. Cioè lei è sicuro che, essendo passato con le primarie, sarà candidato di nuovo al Senato, o sbaglio? Io sono sicuro di avere il diritto a essere candidato. Poi mi rimetto alla decisione del mio partito, nel quale milito con serietà. Sì, vabbè, ho capito, però lei si sente sicuro del fatto che, essendo stato riabilitato, nonostante questo patteggiamento a 2 mesi e 20 giorni, lei sarà sicuramente candidato, perché così vogliono i cittadini, o sbaglio? Perché mi hanno votato i cittadini alle primarie, e perché comunque si tratta di un abuso d'ufficio non patrimoniale rilevato in una carica di assessore. No, l'abuso d'ufficio come lo giudica come reato? Un reato insomma che può capitare, un reato importante oppure no? Quello non patrimoniale e di così lieve entità lo reputo un reato che può capitare a qualsiasi amministratore. D'altronde la senatrice Franca Rame era mia collega e componente della Commissione Lavori Pubblici insieme a me. Sì. Dovrebbe ricordarsi di me e dovrebbe ricordarsi che lei fu candidata paracadutata. Era paracadutata come lei d'altra parte. Sì, però io precedentemente mi ero candidato nel maggioritario. Sì. Sì. Però scusi onorevole, cioè chi patteggia, specie per reati contro la pubblica amministrazione, adesso il Cruciani mi dirà basta fare il leguleio e va bene, ma chi patteggia in genere non è completamente innocente, cioè, oppure pensa che comunque qualche problema ci sia, altrimenti non farebbe il patteggiamento. Oh no, perché no? Lei patteggiò? Perché patteggiò? Perché avevo 38 anni, facevo l'assessore regionale al lavoro e pensavo che, perché patteggiai addirittura in sede di indagine preliminare. E dunque? Pensavo francamente all'epoca che patteggiando della questione non se ne sarebbe parlato più. Siccome riguardava operai di cantieri lavoro, cioè assunzioni, eccetera, eccetera. No, perché aveva paura di essere condannato. Ma che dice assunzione? Si trattava di una graduatoria di cantiere di lavoro della città di Palermo. Sì. Il PM riteneva che io avessi fatto avviare alcuni lavoratori prima di altri che li precedevano in graduatoria. Quello dicevo, sì. In una graduatoria di cantiere di lavoro della durata di 3 mesi. Ho capito, ma perché lei patteggiò? Se si sentiva innocente, perché andò a patteggiamento? Perché all'epoca il mio avvocato mi consigliò così per non continuare questa, tutto quello che i giornali scrivevano in quei giorni. Io la feci semplice e continuai. Lo rifarebbe oppure no? No, non lo rifarebbe. Andrebbe dritto al processo per essere assolto. Sì, sì, dritto. Fu un errore. Invece quella la cosa lì resta una macchia, diciamo, no? Una piccola macchia, come la possiamo dire? Una macchia che anche se lei dice l'abuso d'ufficio per qual, insomma non è, alla fine non è granché per un amministratore, può capitare a qualsiasi amministratore, o sbaglio? Può capitare a qualsiasi amministratore, certo, sarebbe meglio che non capitasse. Sì, però scusi onorevole, io una volta ho avuto un processo e sono andato a giudizio. Sì, intanto Giuseppe De Mita è nipote, attenzione, prima ho detto il figlio. Appunto, è nipote. Non dire che è parente, non è neanche nipote, basta dare notizie false, non è possibile che si cambino i parenti, non è così, dai, povero De Mita, non è parente, dai, io voglio spezzare una lancia fuori De Mita, sicuramente non è parente, dai, figurati. No, è nipote. Ma non è neanche nipote, non dire cose altamente. Vabbè, stiamo parlando col senatore Antonio Papania, Partito Democratico, considerato da Franca Rame. Considerato da Franca Rame un indegno, addirittura, senatore Papania, un indegno. Indegno. Io non mi permetterei di dire la stessa cosa a Franca Rame, non mi permetto di dirlo nei confronti di nessuno, ma io rimando tranquillamente al mittente. Comunque, lei non può dire che l'abuso d'ufficio alla fine non è una cosa grave, Non lo posso dire, questo lo dice lei. Io posso dire quello che penso. No, d'accordo, però l'abuso d'ufficio, insomma. Cioè, è l'abuso d'ufficio, cioè, o è un reato su cui i magistrati possono come dire imperversare? È una tipologia di reato che basta contravvenire norme, sì. Quindi diciamo non avere interessi patrimoniali, basta contravvenire norme per incorrere. Io ho sbagliato a patteggiare, se dovevo andare avanti e andare a processo, ho patteggiato, poi come le ho detto poco fa, sono stato riabilitato con l'estensione della pena, e siccome è una cosa che ricorre a ogni elezione, no? Nel 2006, nel 2008, ora nel 2013, insomma basta. Ma non sarebbe il caso, insomma, a un certo punto uno a questa cosa ha fatto un po' di legislature, dice vabbè... Basta, no. Non ne ho fatte un po', ho fatto 8 anni. 8 anni, vabbè. Dal 2005 al 2013. Sento una cosa, ma pure Ingroia ha detto che in realtà pure Ingroia ha detto che il PD non dovrebbe candidare gli impresentabili. Ha sentito, sì? Tutte le opinioni sono rispettabili. Tutte le opinioni sono rispettabili, beh certo, su quello non c'è nessun dubbio. Dunque lei li capisce, per esempio, anche quelli, essendo lei un ipergarantista, mi sbaglio? O sbaglio? Lei è molto garantista. Un garantista. Lei li capisce anche quelli del PDL, come per esempio Cosentino, che non ha una condanna di primo grado, che in realtà dicono perché io non ho una condanna di primo grado, non mi posso candidare? Cioè lei Cosentino lo capisce da un certo punto di vista? Io lo capisco, certo che lo capisco. E immagino che per reati di una certa gravità comunque si dovrebbe essere un po' più determinati. Ho capito, però lui per esempio oggi dice sono perseguitato da camorristi schifosi, mi stanno perseguitando, non ho manco una condanna. Cioè lei che è garantista, di fronte a un uomo come Cosentino che non ha una condanna nemmeno di primo grado, dice fossi lui certo che cercherei di candidarmi, o sbaglio? Certo, lui fa bene a cercare di ricandidarsi, però sono cose che deve chiedere a lui. Ah beh, certo, poi al PDL in particolare. La risposta che le posso dare io è che quando ci sono rinvii a giudizio o altre questioni per reati di una certa gravità, esattamente concorso esterno, il codice etico del Partito Democratico, ogni partito si dà le sue regole, ma secondo, c'è una legge. Ma secondo lei non sono un po' esagerate queste regole? Cioè, per esempio, anche sui condannati in primo grado o sui rinvii a giudizio, insomma, alla fine si dà troppo potere in mano alla magistratura, o no, senatore Papania? Ma io penso che la magistratura deve avere il giusto equilibrio di poteri, che in questo campo ci siano delle esagerazioni mi sembra del tutto evidente. Evidente, dunque questo codice etico è un po' esagerato, cioè dà troppi poteri in mano alla magistratura, me lo dica chiaramente quello che pensa, signor Papania, perché io lo so che... No, il codice etico del Partito Democratico è un codice ragionevole. Però lei da un certo punto di vista, per esempio alcuni del PDL che non hanno semplicemente o sono solo indagati o hanno solo rinvio a giudizio, Dell'Utri immagino che lei invece lo metta da parte. Io penso che ogni partito, sì, che ci sono due cose da rispettare, uno è la legge e c'è la legge anticorruzione che è molto chiara e molto precisa. Due, ogni partito si dà le sue regole. Io rispetto quelle del mio partito. Però, per esempio, lei fosse in Dell'Utri, si batterebbe come un leone per essere ricandidato o no? No. No. caso di Dell'Utri è diverso. Si capisce. Caso di Dell'Utri è diverso. Invece il suo collega Crisafulli fa bene a battersi anche qui per la sua ricandidatura? Certo che fa bene, perché Crisafulli non è nulla, di, non è nessuno di via giudizio, non è sotto processo, non sì. è nulla di cui, per cui si debba fare indietro. Cosa diversa è chi è a processo. Il Fatto Quotidiano stanno facendo una battaglia pazzesca contro i cosiddetti impresentabili. Intanto bisognerebbe capire chi c'è dietro al Fatto Quotidiano. E chi c'è, scusi? Ma chi c'è? I lettori ci sono. Chi c'è secondo lei? I lettori, dice Parenzo. Secondo lei chi c'è? Insomma, che ci siano solo i lettori mi sembra un po' strano, perché altrimenti questa campagna stampa l'avrebbero fatta contro tutti i partiti, tutti i nomi di tutti i partiti. E chi c'è allora dietro al Fatto Quotidiano? Se lei dice una cosa, però non è che la può dire a metà, senatore Pavarini. È il pupano, secondo me. Immagino che ci siano formazioni politiche che vogliono lavorare per fare alleanze con il Partito Democratico. Ah, lei dice ingroia, c'è ingroia, dice lei. Cioè, certo che ingroia e Travaglio siano molto amici, è un fatto notorio. Dunque, ma per esempio lei, pur di ingroia lo voterebbe mai? Se ci fosse ingroia contro Berlusconi, chi voterebbe? Ingroia. Ingroia, Sì. Proprio Berlusconi... pur di non votare Berlusconi anche ingroia, che certamente non, sta, non è nelle sue simpatie. No, non è nelle mie simpatie, ma comunque in questa tipologia probabilmente lo voterei. Mi sembra di aver letto da qualche parte che Alemanno, sindaco di Roma, abbia detto che Berlusconi è un combattente, l'unico nostro leader. Voglio semplicemente ricordare agli ascoltatori cosa diceva Alemanno un mesetto fa. Sì, ha cambiato parere, mi sembra anche riduttivo. Il ritorno di Berlusconi, improponibile, irrazionale, lo ricordo a memoria, improponibile, irrazionale. Poi lo voleva a una fondazione, capo di una fondazione, cioè praticamente una sorta di buon ritiro, una sorta di ospizio della politica. Alemanno. Abbiamo appena sentito, e un ascoltatore ci ha detto, un altro ospite così e chiudete la trasmissione, non ha torto. Papania del Partito Democratico, senatore, uno di quelli considerati tra gli impresentabili, dire che il reato di abuso d'ufficio è un reato in fin dei conti nemmeno troppo grave per un amministratore, che lui sicuramente si ricandiderà, che non ha problemi, che ha sbagliato a patteggiare, eccetera, e che un po' Cosentino lo capisce. Dimir, provincia di Lucca, buonasera. Buonasera Cruciale Parenzi. Vada. Beccatevi questo Basta! Ma no, non è efficace. Non è efficace. Ancora la dobbiamo lanciare la vera gara per chi dice basta. Com'è? Meglio di Giannino. La dobbiamo lanciare, ma insomma, lei lo dice da lontano, con la voce un po' bassa. Non è così efficace, Vladimir. L'ascoltatore di ieri sera era un po' più efficace. Ho capito, però noi intanto gli abbiamo detto un triplice basta. Vada col triplice basta. No, allora, vada. Basta! Siete in tre. Vabbè, bisogna avvicinarsi un po' di più alla... Debole. Allora? Debolissimo. No, io volevo dire solamente che comunque il momento è gravissimo. Il momento è gravissimo. Dunque... volevo fare questo ragionamento con voi. Sì. Nella misura in cui l'uovo ha toccato vertici da capogiro... Sì, intanto c'è il nuovo inno del Partito Democratico, che è quello di Gianna Nannini, canzone di Gianna Nannini. Cioè, com'è? Non lo so, adesso lo troviamo. Allora, Vladimir? Comunque, siccome l'uovo ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione del consumismo... Non ho capito niente, scusi Vladimir, però non mi faccia pipponi pure lei. Prima passa parte dal basta, e va sul pipone, su. Diventano problemi di massa. E la massa che cos'è? La massa sono tanti. E alla fine, per passare da un uovo alla guerra mondiale, il passo è brevissimo. Parenzo? No, il passo è brevissimo per andare subito in un pronto soccorso, immediatamente però. Quello è il passo breve, brevissimo. Ragazzi, questo era il sogno di mio padre, perché mio padre è un primario del pronto soccorso, sì, ecco. E mi ha chiesto se ti fai mandare un'ambulanza di Parenzo. Ecco, così ci salgo anche io. Così ci vediamo, dice. Perché codice rosso. Parli in modo chiaro. Vuole dire qualcosa oppure vuole fare il deficiente? No, perché va benissimo fare il deficiente, Vladimir, non c'è problema. Basta dichiararlo. volevo fare un po' il deficiente con voi. Poi dopo il basta di Giannino, sinceramente c'è poco da dire. Sì, anche secondo me. Gabriele da Brescia, buonasera. Sera, è un piacere di sentirla dopo un mesetto. Avevo chiamato un po' di tempo fa dicendo che chiamavo dal manicomio criminale, sì, e che stavamo raccogliendo le firme per far ritornare Berlusconi. Sì. Abbiamo raccolto 300.000 firme. Tutti ma quale manicomio, scusi, che sono chiusi i manicomi, che non esistono? Hai già capito però? No, no, ma il manicomio è ancora aperto. Qua c'è, ma a Brescia c'è un manicomio, è un po' largo, insomma. Un CIM, un centro di igiene mentale, cosa? Bravissima, ma tutto qua è un centro di igiene mentale, no? Qua a Brescia, qua nei dintorni di Brescia. E volevo dire appunto che avevamo mandato queste 300.000 firme a Berlusconi. 300.000, e Berlusconi, sì, infatti, è ritornato apposta per fare... Per farci fare un sacco di grasse risate, perché tu vuoi mettere, quando ti svegli la mattina e leggi quelle barzellette che ti dicevano su Noemi, su Ruppi, no, le barzellette quelle che racconta lui, perché quelle fanno cacare, però dico quelle barzellette sulle case a Lorenza Buta, su Ruppi, su Noemi, sull'Orge, sui risorti che ci fregano, ma tu vuoi mettere un po' di ladri in Parlamento che ti fanno fare un sacco di risate, che invece con gente onesta che vuoi mettere Peppe Grillo, ma che ci va a fare con la gente onesta? Ma che la mattina ti svegli sei triste, sì, e invece te svegli con tutte con quelle belle cose che ti dicono, dei sordi che ti fregano a destra e a sinistra, è una soddisfazione. Ecco, volevo dire appunto che qua a Brescia noi continuiamo a prendere ancora firme, sì, per mandargliela ancora a Berlusconi, ha sì, capito? Cioè per farlo, insomma, resistere, per dirgli sì, resisti perché lì. Perché ce la deve fare, perché noi, a noi se fosse Berlusconi a comandare, sì, qua noi si ammazzeremo dalle risate, capito? Poi ci ammazziamo in altro modo, però l'importante è che ci fanno un sacco di risate, capito? Le zanzare di casa. Grillo, non so se voterò 5 Stelle, sentiamo da chi è tentato. Io non so se voterò Movimento 5, ve lo dico sinceramente. No, a me dà fiducia Casini quest'anno e poi c'è Moggi che mi tenta. Le zanzare di casa. Gianluca dalla provincia di Macerata. Gianluca, al buonasera. Dica. A parte, allora, ti tengo a precisare che siamo una Civitanova Marche, primo. Secondo, volevo invitare il dottor Poi? Parenzo. Sì. Sì. Scusa, ma sento un rientro. Vada, allora. Ha una manifestazione che si terrà sabato con la donna Assunta. Sì. Che sarà qui a Civitanova, in quanto la nuova giunta comunale di sinistra ha deciso di eliminare Via Almirante. Cioè la giunta di Civitanova ha deciso di cancellare Via Almirante. La giunta di sinistra, la nuova giunta di sinistra. Sì. Benissimo. E quindi, benissimo. Niente, ecco, cioè, quindi la signora Almirante adesso... Perché benissimo, scusa, perché... Ma no, non fare l'ipocrita, ma benissimo. Benissimo. Perché benissimo, scusa? Benissimo. Ma c'è bisogno di spiegarlo. Come quando volevano intitolare a Roma Largo Bottai, ad esempio, a un gerarca fascista. Ma dai, su. Una via dedicata all'ammirante già da tempo si lascia, non è che si cancella, lascia perdere su inaugurarla. La toponomastica ha una sua, come dire, efficacia. Ma no, non faccio il cretino. E lei se ne faccia una ragione invece, perché è stato un militante della Repubblica Sociale Italiana. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Ma dia tutte le bastonate che vuole, però voglio dire, come fu una vergogna proporre Largo Bottai, così non mi vergogno a dire che secondo me la strada ad Almirante non è giusto indicarla. Ma si può ancora dire delle cose così in questo paese o no? Roberto dalla provincia di Latina, buonasera. Ma scriveva sulla difesa della razza. Roberto dalla provincia di Latina. Ma perché non ti scandalizzi? Dai, un su. Po' per le cose? Roberto, non me ne frega niente. Roberto della provincia di Latina, sinceramente, del passato di Almirante durante il fascismo non me ne frega assolutamente nulla in questo momento. Il busto va benissimo, deve essere restituito, le vie che ci stanno vanno bene, punto e basta. Non... Ma come vanno bene? Ma se qualcuno decide su Roberto giunta, dalla provincia di Latina. Un tema è fondamentale, buonasera. Però se una giunta decide di buonasera. Allora? Buonasera, siamo alle solite, siamo in campagna elettorale, politici, tutti quanti vogliono abbassare le tasse, dico, ma Monti ha risolto i problemi dell'Italia, grazie a chi? Grazie agli italiani, ma loro da parte loro, i politici, onorevoli, deputati, senatori, qual è il loro sacrificio che hanno fatto? Hanno abbassato di pochissimo il loro stipendio. Di pochissimo, vabbè, Monti ha rialzato l'Italia grazie a noi, siamo alle solite. Aspetti un attimo, aspetti. anzi, scusa, ci ho ripensato. Aspetta. Scrivere via Almirante è bello. Perché basta! Via Almirante. Via Almirante è bello invece. Basta! Cioè, capisci? Via Almirante. Basta! Bello. Basta, lo dico io, basta. Via Almirante. Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. L'ascoltatore di prima ricordava una battuta, un passaggio di Febbre da cavallo, non so se ti ricordi. Ah, stupendo. Stupendo che se non l'hai capito nemmeno te. Ah, mandracata. Francesco da Catania, buonasera. Sì, buonasera, io volevo provare a condividere con voi un ragionamento riguardo la candidatura del magistrato, ex magistrato di Ingroia. In pratica io ci sto capendo poco, nel senso che lui lascia la magistratura per andare in Guatemala, poi lì sostanzialmente non è andato e ha scelto di partecipare attivamente alle elezioni. In una terra come la Sicilia o in un fenomeno globalizzato come quello mafioso, mi chiedo se un magistrato nella sua preparazione non fosse più indicato come magistrato, quindi in un lavoro tecnico di lavoro appunto, e invece che come candidato. Cioè, a chi dobbiamo più credere se anche determinati baluardi poi fanno un po' a cadere? Che sia più utile come politico, personalmente ho molti dubbi, anche perché sulla caro Francesco, lei la mette in maniera assolutamente seria. È un qualcosa che appartiene già al passato, però le voglio segnalare. Ormai non si parla nemmeno più di Ingroia come PM della trattativa Stato-Mafia, come Ingroia che ha un incarico in Guatemala. Si parla ormai di altro, si parla dell'eventuale patto di desistenza col Partito Democratico, si parla di Ingroia raggiungeranno il quorum, delle candidature dello stesso Ingroia, eccetera eccetera. Ormai tutto quello che è accaduto prima è quasi dimenticato, completamente dimenticato. Alberto dalla provincia di Padova. Sì, buonasera. Buonasera. Ma io sono semplicemente indignato a quello che ha detto prima Parenzo su Almirante. Si può essere di destra o di sinistra, si può essere d'accordo o non d'accordo, però non si può negare che comunque è stato un politico che ha fatto parte della storia italiana. Cioè, Parenzo anche Bottai. Sì, ho capito. Ne abbiamo di strade intestate a Berlinguer o a tanti di sinistra, ma nessuno mi ha mai detto niente. No, ma io sono d'accordo, io sono d'accordo con lei, Alberto. E Parenzo che ha questa sorta di antifascismo ridicolo, insomma. Di antifascismo comico. Anch'io sono antifascista, ma non sono un antifascista comico come te. Cioè, comico. Cioè, sì, ma la comici. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Anche un sacco di gente che poi è diventata comunista scriveva queste cose. Che poi. Che vuol dire? E dunque, però non noti queste cose, non le fai notare. Noto cioè. Che lui è rimasto coerente con la sua storia, col suo pensiero fino all'ultimo. Non è che si è pentito, ha detto no, ho scritto delle cose vergognose sulla difesa della razza. Vabbè. Non ha mai detto questo, non ha mai rinnegato. Altri hanno detto, abbiamo scritto. Vabbè, Alberto, allora? Allora niente, semplicemente vorrei che fosse dato a Cesare quel che è di Cesare, tutto lì. Credo che l'Almirante faccia parte della storia italiana come ne fanno parte tanti altri. Negare potrebbe essere una brutta cosa, tutto là. Vabbè, grazie. Giuseppe da Bari, buonasera. Buonasera, salve. Senta, volevo intervenire su Fini e poi sul discorso che stavate facendo prima del figlio di Venita, eccetera. Io sono fatto parte della costituente di FLI anni fa, poi me ne sono uscito. Delusissimo dalla figura di Gianfranco Fini, Giuliani, eccetera. Vabbè, allora. E ieri sera non è parlato. Per quanto riguarda il nepotismo, le dico questo. Cosa mi ha colpito da Milano in poi? Che non ci sono state mai delle votazioni e noi abbiamo avuto come presidente dell'Assemblea Costituente l'onorevole europarlamentare Tatarella, solo perché ha il cognome Tatarella. Fino a qui va bene. Ma perché è un autorevole rappresentante dell'ex. Sì, però dico, non è stato votato da nessuno. Noi siamo andati a Milano per votare, guardi, noi non abbiamo votato quello. Primo. Seconda cosa, associazione giovanile di Future Libertà, si chiama Generazione Futuro. Chi è il direttore? Il secondo genito di Tatarella, Giuseppe Tatarella di Bari. Comitato provinciale FLI Bari e comitato provinciale FLI Cerignola Foggia, perché loro sono originari di Cerignola Foggia, primo genito di Tatarella, Fabrizio Tatarella. C'è anche la figlia nel partito, ma non a cariche, non votati da nessuno. Io dico solo questo, la mia delusione. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico. Siamo in collegamento? Fernando da Roma. Tutti coloro che non si saranno presentati saranno considerati fuori legge e passati per le armi mediante fucilazione nella schiena. I gruppi disbandati, qualunque ne sia il numero, dovranno inviare presso i comandi militari di polizia italiana e tedeschi un proprio incaricato da prendere accordi per la presentazione dell'intero gruppo e per la consegna delle armi, da un manifesto della Repubblica Sociale Italiana firmato nel 1944 da un certo Giorgio Almirante. Vabbè, Fernando da Roma, hai detto la tua stronzata della serata, su. Fernando da Roma, dai. Sì, pronto? Vada. Senta, volevo dire, a proposito dell'intervento di Papalia, che mi è sembrato diciamo abbastanza inqualificabile, però c'è un aspetto che volevo sottolineare che io condivido anche per un'esperienza personale. Quando diceva che si può commettere un reato di abuso d'ufficio, diciamo non di tipo patrimoniale, può succedere, perché lei sa benissimo che c'è una caterva di norme in Italia, per cui anche una semplice interpretazione può essere vista da un giudice in un modo e da un povero giovane assessore in un altro. E quindi voglio dire, insomma, si può prendere in giro per tanti altri aspetti, ma forse per questo meriterebbe di essere valutato attentamente. Va bene, grazie. Mimmo, provincia di Caserta, buonasera. Buonasera. A lei e al dottor Parenzo vorrei portare la testimonianza che di nepotismo per gli italiani, secondo me lei riceverà tante di quelle telefonate, la mia è una di queste. Io abito qua in provincia di Caserta. Ebbene, lei ha parlato dell'onorevole De Mita che ha candidato il figlio, contemporaneamente lui sta a Strasburgo, e qui a Caserta il presidente Zinzi della provincia di Caserta, onorevole, lei l'ha pure intervistato. Io sono uno che la seguo sempre da tanti anni. Sì, ho capito. Che fa Zinzi? Mi sembra che ha candidato il figlio pure lui. Il figlio, mi perdoni, parlavamo di nepotismo, il figlio è candidato alla Camera numero 2 qua a Caserta, Campania 1. Il figlio di Zinzi si chiama Giampiero Zinzi. Sì, poi? Per dirle, questo è il nepotismo. Sì, ma lo so che non c'è solamente il caso di Delfino, per carità. Cioè, ci sono tanti altri casi di figli, parenti, mogli, eccetera. In particolare al sud, mi perdoni, dottor Cruciani, in particolare al sud. Una sorta di ammortizzatore sociale. Nicola da Trento, buonasera. Sì, un piccolo appello veloce. Vi prego, non togliete più, mai più, Giannino che grida basta, basta, perché è una cosa troppo figa, vi prego. Tenetelo sempre, sempre a ruota. Ma chi lo vuole togliere? Io non ho nessuna intenzione di toglierlo, non si preoccupi. Anzi, glielo rimetto subito, guardi. Basta! Basta! Basta! Basta! Mi fa morire, grandi, grandi, grazie. Grazie, Giovanni da Campobasso, buonasera. La gente si eccita. Darò il mio volo a Giannino. Sì, aspetti. Ho deciso che darò il volo a Giannino. Stia calmo, che non si senta niente, non si sente niente. Allora, non si sente niente? Basta! Basta! Basta! Da dove ha parlato? Da un telefono fisso lei? Da dove parla? No, sto parlando dal telefonino. Aspetti che la richiamiamo. Nicola da Trento, buonasera. No, quello di prima, Francesco da Milano, è su, dai, Francesco. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Volevo dire, complimenti a tutti e due, però sono sempre d'accordo con Parenzo, quindi lo abbraccio. Anche il suo Almirante ha detto cose sacrosante. E poi volevo dire che gli italiani si lamentano tanto dei politici, ma sono come i politici che hanno votato. Bravo, bravo. Quindi devono smetterla di lamentarsi, devono cercare di cambiare questo paese. E io, voto Partito Democratico, sono molto orgoglioso di votarlo, anche se per certi versi non mi convince del tutto, però sono contento di votarlo e quindi spero che possa cambiare qualcosa. e soprattutto per esempio sui diritti civili, su queste cose dove siamo indietro anni luce rispetto ai paesi europei, sì. E niente, e va bene, grazie. Salutare i parenti. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito, why don't you go home? Non me moleste moschito, let me eat my burrito. Luca da Napoli, buonasera. Buonasera a lei, Parenzo. Dica. Salve, io volevo brevemente affrontare il discorso della candidatura di Monti e sollevarmi un attimino l'incoerenza con quanto ha dichiarato da Presidente del Consiglio e oggi che è in campagna elettorale. Innanzitutto aveva dichiarato che non si sarebbe mai candidato, perché lui era un tecnico che finiva il suo mandato nel 2013. Invece ce lo ritroviamo. Vabbè, ma è roba passata, Luca, su. Cioè, stiamo parlando del passato. Sentiamo la 7 su De Giorgi, sentiamo che dicono. Campagna violenta messa in moto contro Alessio De Giorgi, candidato omosessuale, è quello di impedire che anche tra le forze conservatrici e moderate ci possa essere qualcuno che porti avanti le battaglie di civiltà. Che si siano andati a cercare battaglie di civiltà. Ma di che stiamo parlando? La Concia e Scalfarotto parlano di forze che si sono messe in campo, di campagna, di forze può darsi, ma la campagna non esiste, nessuna campagna. Non esiste alcuna campagna. Ci sono dei giornalisti che attraverso delle fonti hanno recuperato del materiale, non è stato fatto nulla di illegale, è stato pubblicato tutta roba vera, sono state pubblicate notizie vere, notizie che sono state controllate sull'attività imprenditoriale del signor De Giorgi. E noi ne abbiamo parlato in maniera assolutamente pacata, non è che abbiamo detto ah oddio questo qua è un imprenditore del porno dunque non si può candidare, è lui che non ha detto delle cose. Successivamente sono entrate in campo altre persone, le quali sulla spinta che viene da Oltretevere, così ci hanno riferito, hanno consigliato al signor De Giorgi di ritirare la sua candidatura. Questo è accaduto secondo la nostra ricostruzione. Dunque non c'è nessuna campagna denigratoria. Non c'è alcuna campagna denigratoria. Ma non è lui che doveva fare delle verifiche? Era Bondi. Tra l'altro c'è la questione di Bondi. Dove è finito Bondi in questi giorni? De Giorgi, numero 4 al Senato in Toscana, non è che il numero 25, numero 4 con buone probabilità di essere eletto. Perché non hanno controllato il mitico Bondi? Perché non ha controllato le attività imprenditoriali di questo signore? Oppure ritenevano compatibili, che ne so, allora perché si è ritirato? Dai, su, non diciamo stupidaggini. Giovanni da Campobasso, un bel basta di quelli seri. Basta. Vabbè, ma così è pagato il basta, cioè è meglio quello di Giannino allora. Basta! Luigi da Roma, buonasera. Ciao a tutti, volevo solo intervenire per dire due paroline a Parenzo per quella grossa idiozia che ha detto poc'anzi, che cancellare via Almirante sarebbe una cosa giusta. Io dico solo una cosa, io sono di Roma e spesso mi trovo a percorrere via Palmiro Togliatti, che basta e avanza, solo il nome per evocare quello che era e i rapporti che aveva con l'URSS, quello che ha nascosto, ha accettato e denigrato i morti nostri italiani, perché era una pena giusta quella che le famiglie dovevano subire per il fatto che quelli erano stati fascisti. E io mi devo sentire che Almirante, perché ha firmato è vero il manifesto sulla difesa della razza, ma non è stato l'unico, come dicevi anche tu Cruciani prima, e non è stato l'unico, ma non solo dei politici, ma di grossissimi intellettuali che hanno firmato quel manifesto. Qualcuno che c'è, poi, lui ovviamente, ha rivendicato? Lui ha rivendicato nulla, non l'ha mai rivendicato e da quando è nata la Repubblica non ha mai rivendicato nulla che riguardasse quel manifesto. Quindi che non ti può stare bene, non sono io a dovertelo imporre, perché c'è via Palmiro Togliatti, l'accetto perché fa parte della storia d'Italia, ma non veniamo a fare queste cose nel 2013 con tutti i problemi che ci abbiamo. Che cosa si mette a fare una giunta a togliere via Almirante? È ridicolo, scusatemi. Ma sono d'accordo con lei su questo, assolutamente d'accordo con lei. Paolo dalla provincia di Venezia. Via Almirante, via. Paolo dalla provincia di Venezia, sì. Vabbè. Pronto, Paolo, buonasera. Dica. Paolo da Venezia. Piazza, invece via. Volevo chiedere al signor Parenzo, sì, che con così meticolosa precisione ha riportato quel documento di Almirante, per qual motivo, invece che andare al 44, oggi come oggi non legge il pensiero del nostro Presidente della Repubblica sull'invasione dell'Ungheria? Non l'ho mai sentito fare precisioni di questo tipo. Che stupidaggine. Lo ringrazio. Grazie anche a lei, Vincenzo dalla provincia di Massa. Buonasera, Vada, vada, un vada. Fastidioso ritorno in cucina. Lo so. Ascolti, io volevo. Mamma mia, fastidiosissimo. Un attimo. Sta telefonata, non riesce stasera, non c'è niente da fare. Stasera tira così, come il piffero di Berlusconi, che evidentemente tira ancora, è ospite ovunque, le sue parole vengono riprese dappertutto, fanno sempre titolo, eccetera, eccetera. Allora, Vincenzo... Vuole tassarmi anche il piffero. Hai capito? Vincenzo dalla provincia di Massa, fra poco a Sky TG24 ci sarà l'area d'amico con Mario Monti, cercheremo di mandare qualcosa, dunque restate qui, restate in macchina, non vi suicidate. Vincenzo, dica. Eccomi, rieccomi, ma non va. Allora? Ci riprovo, io volevo farvi partecipe del mio sconcerto. Sì. Dico, ma come si fa ancora a credere in Berlusconi che per la quarta volta si presenta agli italiani a promettere qualcosa? Ma questo ha già avuto 3 possibilità di mettere in pratica ciò che oggi ci promette, perché non l'ha fatto? Ma questo non è manco degno di stare nel Parlamento italiano. E poi sono anche sconcertato da... E non la voto, non lo voti. E non lo voterò, no. Vabbè. Ma senta, però... No, ma ascolti, c'è anche quell'altro che è intervenuto che ha detto che non ne può più, anche lui è per il basta, però va a votare il PD. Ma come si fa anche lì a votare il PD, no? Ma ho capito, ma come si fa a votare Berlusconi? Il ministro Fornero che ha dato la peggior mazzata sulle pensioni. Ma quale mazzata? Ma quando mai? Ha fatto benissimo. Ma quando mai? Ma guardi che nell'ultimo tempo... La fila c'è alla mente dei poveri e fate pensionati, Ma cosa c'entra? Mica ha abbassato le pensioni? Lasciamo perdere il problema degli esodati, che pure è stato importante, ma ha fatto una cosa sacrosanta, cioè alzare... No, lei dice non ha abbassato alzare, le pensioni, alzare, ma alzare, ma quello è un altro discorso. L'IMU a chi prende, ma quello mica, ho capito, ma lì no, ho capito, ma non è stata solo la Fornero. Alla mente dei poveri. Monti ha già detto: escludo che gli italiani siano matti. Errori, ma la direzione riformatrice e liberale è stata sostanzialmente chiara, quindi io preferisco ricordare questa più circostanziata e meno televisiva dichiarazione del presidente Berlusconi. Però presidente Monti, anche lei diceva... Beh, sempre duello, duello tra Berlusconi e Monti, Sentiamo ancora Monti. Internazionali. È vero. È poi vero. Cosa è cambiato? Adesso pifferaio magico, insomma, l'abbiamo visto in un'altra veste. Ma io credo che sia importante che gli elettori, soprattutto gli elettori di stampo liberale, di stampo conservatore, soprattutto gli elettori del nord, quelli della Lombardia, stiano molto attenti, perché un conto è essere stato un grande personaggio di rilievo, a suo tempo con una grande carica innovativa. Anch'io nel 1994 ero abbastanza sedotto da questa... Ma l'ha votato? Il voto è segreto. Mm. Oh, io posso dirgli tutti i miei voti. L'ho votato nel 1994 e solo allora, perché vedevo una promessa di rivoluzione liberale che poi non è purtroppo andata avanti. Confessione di Monti... Nel 1994 ho votato Berlusconi. Berlusconi o... Assolutamente, certo, sì. Finisca pure. Ed è, secondo me, un vero peccato che l'Italia si sia trovata, e in fondo tuttora si trovi, tra una sinistra che ha fatto grandi passi avanti verso l'accettazione di un'economia di mercato, ma che quando fa riforme verso l'apertura alla concorrenza deve farlo un pochino contro la sua cultura storica, e che del resto è associata oggi a forze di estrema sinistra che sono, a mio giudizio, conservatrici, e una destra come quella del presidente Berlusconi, che si è presto trovata imbrigliata nelle sue clientele, nei suoi conflitti di interessi, nella sua distorsione, a mio giudizio, nell'intendere la legge, e che quindi ha impedito all'economia, alla società italiana, di evolvere come tanti altri. Sì, questo sarà anche vero, però non è che Monti ci propone con gli alleati che ha un'alternativa, no? Un'alternativa in senso liberale. Vabbè, insomma, la cosa è molto lunga. Andiamo a Patrizio da Bergamo. Buonasera. Basta, basta, basta. Ah, così, piano. Sì. Leggero e piano. Ok, giusto, faccio così. Ma non è meglio quello di Giannino? Basta! Basta! Beh, È inimitabile quello di Giannino. Lei come lo dice, Patrizio? Basta, basta, basta. Domenico da Bari. Salve. Prego. Io sono... Non so se queste cose è bene dirle, però è bene dirle perché secondo me bisogna farle più che dirle. Sì. Sono un componente del direttivo regionale di Future Libertà. Mi riaggancio a quello che diceva quell'altro ascoltatore su Future Libertà. Stasera probabilmente voteremo per la dimissione in massa di tutto il direttivo regionale e di quasi tutti i coordinatori provinciali di Future Libertà della Puglia, perché scusi, lei che cos'è, un rappresentante di... Io sono un componente del direttivo regionale. Ma cioè che fa? Il consigliere comunale, il consigliere regionale? No, che no, fa? No, sono un medico di famiglia che si è lasciato appassionare da fini e ci ha creduto veramente da prima di quel famoso aprile, del 10 aprile. Lei dunque non voterà per Futura Libertà, mi sta dicendo? Assolutamente non voterà Futura Libertà e stasera ci divertiamo tutti in direttivo, regionale e tutti. Ma perché cosa? Per le candidature, il modo in cui sono state scelte? Perché le candidature sono state gestite in maniera padronale. Nel faccia un esempio, mi faccia un esempio. No, faccio nome e cognome. Diciamo l'elenco degli eleggibili, molto teorici però. Sì, beh, certo. Partendo dal primo, siamo il primo, il capolista è Fini. Sì. Il secondo dovrebbe quasi certamente, ma sarà certamente, Menia, che è un friulano si è catapultato friulano, in Puglia, catapultato. E questo dopo che per tre anni il presidente Fini, e mi dispiace parlare di un presidente della Camera, ci ha illuso dicendo che lui era per le liste che rappresentavano il territorio, ma si dice sempre. Le liste decise in base al merito, eccetera, eccetera. Qua non c'è nulla del genere. Ma quanti ne vengono eletti alla Camera? Credo che con gli attuali sondaggi noi siamo intorno all'1%, forse uno o due con i resti. Quindi in ogni caso un pugliese non sarà eletto. Vabbè, bisogna vedere il 3 chi è. Il 3 dovrebbe essere, guarda, no, mi riaggancio a quel sempre al ecco, a un certo Fabrizio Tatarella, figlio di quel Salvatore Tatarella. Vabbè, quello è pugliese, però se fosse eletto quello. Sì, ma non verrà certamente eletto, perché per prendere il terzo parlamentare... Vabbè, Fini può optare poi per un altro... Secondo te, io dico che se Fini opta perché forse se viene eletto il primo sarà eletto Menia, perché la verità è quella. Menia a casa sua non prenderebbe un voto per essere capotabutato in Puglia. Ho capito, va bene che in Puglia Futura Libertà, Parenzo. Cioè, grandi premesse. Sentiamo un attimo Monti, poi un ospite che è già pronto qui. Ha twittato: Monti è un ritardato morale, fa una cosa immorale ma non la riconosce. Questo proprio oggi durante il suo tsunami tour. Ha anche precisato la cosa che ho fatto? Probabilmente la sua discesa in campo. Forse la pensa come D'Alema, anche D'Alema disse più o meno la stessa cosa. Ma D'Alema l'ha motivata, io non sono d'accordo, ma l'ha motivata. No, su Grillo, anzitutto è un grande onore per me figurare nel suo raggio di attenzione. In secondo luogo... Anche se le dà del ritardato morale? Ritardato morale, ma ci sono due possibilità, o voleva darmi del ritardato mentale, giudizio legittimo... Oppure, e sarebbero in due oggi, insomma, mi sembra veramente. Oppure con riferimento a una cosa morale, come io considero, ma forse lui no, sia stata la mia salita in politica, può voler dire che l'ho fatta tardi nella vita di una persona e quindi sono ritardato. Zanzare, dietro i venti in montagna. poteva allearsi con Giannino, ma il simbolo del suo movimento è stato ripudiato, caro Parenzo. È stato ripudiato, ripudiato. Perché alcuni lo considerano scandaloso, questo simbolo. E perché alcuni considerano, compreso il Viminale evidentemente, scandaloso il fatto di evocare gli evasori. Lui ha fatto un movimento che si chiama Forza Evasori ed è l'amico Leonardo Facco. Buonasera. Pronto? Eccoci, dove sei? Vabbè, non si sente niente, su. Leonardo, dove sei che non si sente nulla? Vabbè. Vabbè, arrivederci. Alessandro da Roma, adesso ti richiamiamo. Tre ore per fare un collegamento con l'Italia, non so con che cosa. Alessandro da Roma, dai. Sì, salve Cruciani. Dica. Volevo appunto dire la mia sul discorso di togliere la via ad Almirante. Sì. Via Almirante. No, che è giusto, come la Germania ha fatto nel dopoguerra un intero processo di denazificazione, andatevi a vedere su Wikipedia che cosa significa, qui in Italia non è stato fatto un processo di defascistizzazione. E non ho capito, non ho capito. Non ha sentito? No, non ho capito l'ultimo processo, mi parli in maniera normale, la gente non parla così. Come è stato fatto un processo di denazificazione, sì, in Germania, sì, bisognava fare lo stesso in Italia con il fascismo, cioè far sparire completamente l'ideologia fascista. Va e bene. Tutti i nomi annessi e ma connessi. Quando mai? Ma no. No, come quando mai? È stato fatto in Germania, perché non è stato fatto qui? Vabbè, qui? Pazienza, ormai non è stato fatto, chi se ne frega. Alessandro, non mi pare un problema epocale, abbia pazienza, non mi pare un problema epocale, chi se ne frega, esiste via Almirante, lasciamo via Almirante. Ma come? Le ideologie legate a quella corrente, tutte. Vabbè. Anche il cognome Mussolini sarebbe dovuto cambiare tutta la dinastia. Sì, dovevano tutta cambiare la dinastia. Il cognome. E perché non ammazzarli direttamente? No, non ammazzarli, cambiavano il cognome. Cambiavano il cognome, ma lei è malato, di mente. Non bisognava ricordarli più. Vabbè, ma lei è malato, Alessandro, ma ognuno ha le sue malattie, le sue ossessioni, le sue perversioni, eccetera, non si preoccupi. In Germania è stato fatto, nessuno può inneggiare Hitler manco per scherzo. Ma manco per scherzo, quello si fa, ma non si, leggerezza, ma non si preoccupi, fare, non e si poi si creano questi momenti. Arriva anche per lei il momento di una piccola cura. Certo, mandatela. No, ma non sto mandando nulla, ma lei si rende conto che dice che il nome di Mussolini andava cancellato? Certo, no, la dinastia, il cognome di quelli rimasti in vita andava cambiato, non uccise le persone, cambiato, invece di Mussolini si cambiava il cognome, punto. Si faceva sparire una memoria. Vabbè, ma lei ha qualcosa da registrare. Lei ha qualcosa da registrare. Succede a un sacco di gente di avere qualcosa da registrare. Cioè, lei vuole fare sparire un cognome. Io sono più lo sa, le dico una cosa, Alessandro. Sai, io sono molto più antifascista di lei, lo sa? Io sono molto più antifascista di lei, perché non sono antifascista come Parenzo sulle cose ridicole, cioè non sono antifascista dei miei stivali, non sono antifascista sulle cose patetiche, non sono antifascista sulle pruderie, non sono antifascista sulle vie o sui cognomi eccetera, sono antifascista vero, cioè contro le dittature eccetera. Lei invece è portatore di un'altra intolleranza, cioè intolleranza vuole rispondere con l'intolleranza, ha capito Alessandro? Dunque, registri qualcosa. Che un'intera popolazione, un'intera nazione, sì, è stata vittima. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Che cosa c'entra questo? Cosa c'entra? Lei vuole rispondere a intolleranza con intolleranza. Cosa vuole fare adesso? Cancellare che bisognava fare cosa? No, adesso è troppo tardi perché i danni sono stati fatti. Che cosa bisognava fare? Bisognava dare l'opportunità di ricordare nessun nome di quella ideologia. Come non bisognava dare la possibilità ancora alla nipote di dire in televisione sono fascista e ne sono orgogliosa. Cioè, ma dove vai? No, ovviamente non l'ha mai detto così. Non l'ha mai detto. Galera. Tante altre. Però sono quelle che secondo me hanno visto giusto nel capire per prime i difetti di questo bipolarismo. Cioè, Facco? Separarsi da Berlusconi. Perché di fatto Facco, ci sei o no? Ci sono. Oh, movimento Forza Evasori, capito Parenzo? L'hanno bocciato. Ma ti rendi conto? Perché ridi? Ma cosa c'è da ridere? Cosa ridi? Ma non ho capito cosa c'è di male a presentare un movimento che si chiama Forza Evasori, spiegamelo. Ma sì, ma non c'è neanche da... È come quelli che dicono basta tasse, che c'è anche un movimento basta tasse. Beh, giustamente. forza evasori, cioè è, ma tu non è lo illegale. Voti, ma è illegale. No, cioè, stai dicendo che Facco andrebbe arrestato. Ma non arrestato, poverino, ma chi è arrestato gli fai un favore perché gli fai solo pubblicità a Facco. Ma andrebbe, non andrebbe presentato, come dire, forza stupratori. Ma dai, su, cosa? Leonardo, rispondi tu, dai. No, beh, cos'è? Io ho presentato anche le motivazioni relative ai valori. Ma non ci sono motivazioni. Devo dire che la cessione fiscale... Scusa, mi sai dire dove ti trovi? Però, Leonardo, scusami, mi sai dire dove diavolo ti trovi? Perché no, non è che stiamo parlando col Presidente del Consiglio, adesso con tutto il rispetto, per carità, però vorrei capire dove diavolo ti trovi, perché non riuscire a fare un collegamento decente alle 20:48 in Italia con Leonardo Facco mi sembra una follia. Cioè, allora, Leonardo, dove diavolo ti trovi? Mi trovo in provincia di Bergamo. Hai l'auricolare, hai qualcosa, sento poco, sentiamo poco, ribellatevi. Ecco, è caduta pure la linea. Benissimo, Gennaro da Napoli. Basta! Come l'ho detto? Beh, insomma, così così, così così. Ma non se ne può più, che palle! E arriva uno e metto le tasse, arriva un altro, la tassa l'hai messa tu, non l'hai messa tu, ma pago sempre io. Non hanno padri, le tasse non hanno padri, non hanno padri. Le tasse non hanno padri, sì, però la tasca è sempre la stessa. No, e lo non so. Se ne può più, e basta! Lei ha ragione, ogni volta... Ma ci prendono per i fondelli! Nessuno... Ma manco il gioco delle tre tavolette a Piazza Garibaldi a Napoli, questo vince e questo perde, questo vinco e questo perde, perdo sempre io, e basta! Secondo da Biella, no, non è male. Secondo da Biella. Buongiorno, sarò. Scusi, lei si chiama Secondo? Io mi chiamo Secondo Secondo Giovanni, poi K Verdore e tutto il resto di cognomi. Purtroppo sì. Ne ho tanti. Cioè, scusi, come si chiama lei? Non ho capito. Secondo? Secondo. Di cognome? K trattino Verbolito della Repubblica Italiana. No, scusi, un attimo. Secondo K trattino? Trattino Verzone. Verzone, perché che c'è tra il K trattino, scusi? Perché hanno abolito il trattino per via delle questioni legate ai computer, ma quello non c'entra niente. Da noi abbiamo tutti i doppi cognomi nella nostra zona. Sono nato il 12 ottobre del 1942. Sul mio certificato di nascita c'è scritto, perché io ho il pedigree, di pura razza ariana. Ho protestato tantissimi anni fa, consigliere comunale del Partito Liberale in un comune completamente rosso, perché volevo che non fosse identificato questo dato e che questo non fosse sicuramente messo agli atti in tutte le No, persone. Però secondo me non ho capito bene cosa è accaduto, scusi, cosa è accaduto, no, non ho capito. No, è accaduto, no, mi collego semplicemente a Parento. Il discorso, io ho fatto tutta la vita col popolo ebraico. La mia scelta sarebbe stata, se fossi nato un'altra volta, di nascere ebreo. Oh, però dire. Devo solamente c'entra? Mettere un appunto al signor Parenzo. Lei chiamate qualcuno, dovrebbe ricordare un attimino l'anamnesi, ricordare un la attimino. Storia che c'è stata, ad esempio, qui nel nostro Biellese, che è stata piena purtroppo di morti. Ma via, ma chiudi vabbè, tutto. Allora? E allora vorrei dire che purtroppo, o per bene, non tutti i coloro i quali avevano partecipato da ragazzi giovani, giovanissimi, nella purtroppo RSI, erano dei delinquenti e neanche dei... Ma che c'entra? Ma non mi interessa. Ma vabbè. L'ho capito che a lei non interessa niente. Non mi interessa. Chiamate qualcuno rapidamente per farlo intervenire. Fuori ormai il futuro è davanti, non è dietro. Adesso basta. Chiamate Rai Storia. Sì, certo. Edoardo dalla provincia di Vicenza, buonasera. Istituto Luce, buonasera. Io volevo solo chiedere una cosa a Parento. Sì. È più giusto per caso mettere la via a Carlo Giuliani piuttosto che quella almirante? Cosa ne pensa? E dopo una cosa a lei per cortesia. Ho sentito che ci sono voci più che altro che dicono che si possa andare a votare e annullare la scheda. Ma lei può fare quello che vuole, andare a votare, basta che non va là con la pistola e spara agli scrutatori, lei può fare, può andare lì, dire quello che vuole, poi verrà gentilmente accompagnato fuori dalla polizia, può andare lì, mettere una mortadella dentro come si diceva una volta, dire siete delle merde, il voto verrà annullato, lei può fare quello che vuole, per fortuna no, c'era lì. Era molto più semplice di così, è che io non l'avevo mai sentita. Ma e che cosa, questa cosa ridicola di andare là e annullare, ma che vuol dire? Vada là e non... Ma perché lei... ci deve andare? Non ci, se vuole andare ad annullare il voto, non ci vada direttamente. No, non possono andarti, altrimenti il mio voto andrà alla maggioranza, no? Ma chi l'ha detto? Ma questa è una sua follia che dice lei, non è vero, il suo voto andrà tra quelli gli astenuti, oppure quelli che no, schede bianche o schede nulle, schede bianche e nulle, nessuna maggioranza, non si preoccupi, tutte stupidaggini. Grazie della chiarezza. Damiano dalla provincia di Treviso. Pronto? Dica. Basta! Beh. No, io volevo dire solo una cosa sulla via Almirante. Sì. Non mi interessa se la cancellino oppure no, che tanto ormai che c'è posso lasciarla, però voglio dire una cosa sull'Almirante. Sì. Quando ancora Almirante era segretario del Movimento Sociale Italiano, sì, un suo onorevole, il signor Saccucci, sì, ecco, in un raid notturno a Sesto Romano, sì, sparando per mostrarsi bello, ammazza una persona. Vabbè, allora? E allora il signor Almirante, assieme all'internazionale fascista, lo fece espatriare e lo protesse, non so se fino alla morte, lo protegge ancora. Vabbè, a posto che sia vero, dunque? E dunque, Almirante si meriterebbe ancora questa cosa, se ne parla, nessuno che ne parla. Aspetti un attimo, mi faccio sentire delle cose un po' più attuali con Monti, che si è messo là sul grafico dello spread. Se la Banca Centrale Europea fosse venuta in soccorso comprando titoli di Stato italiani, questo non era stato sufficiente per frenare la salita dello spread, no. Si era arrivati a questo 575 dei primi di novembre, quando il nuovo governo è stato formato, ecco. E oggi siamo a 260, 60, quindi circa qui. Si, ritorni al posto, sembra l'alunno che è andato a spiegarci le cose, invece basta, lei è il professore. No, è la serata delle strade. Io non riesco ancora a capacitarmi del fatto che ci siano delle strade, per esempio mi pare a Torino, sì, intitolate all'Unione Sovietica, Corso Unione Sovietica, un paese che non esiste più e che è stato lo strumento di una delle più efferate macchine totalitarie. Ho capito, ricorda. Però bisogna anche capire che questa storia delle strade, cioè non è necessariamente, se uno intitola una strada, è stato il corso Unione Sovietica, ovviamente figlia di un'epoca lontana. Certo. Dopodiché ormai fa parte della storia di una città, ma chi se ne frega, cioè corso Unione Sovietica, punto, sì, allora lei, dà fastidio a lei, bene, a qualcuno darà fastidio via D'Azeglio, a qualcun altro darà fastidio via Montale, cioè perché, ma veramente ancora vogliamo stare su queste cose? Ci sentiamo domani, va, 18:30. La prima cosa da fare è prendere un Emanuele Severino, che mi sembra interessante, e coprire subito i libri di Bruno Vespa, in modo che non diano proprio sospetto così. Ecco, ci mettiamo davanti Stella Rizzo, va bene così. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Andate a fanculo, basta. Radio 24. La passione si sente. MBA Part-Time in collaborazione con University of Michigan. www.qoa.it. Vi ha presentato La Zanzara.